Capitolo 33. He just kept coming and coming. 3 giorni dopo, Anna, ritornando dalla scuola, trovò Janet in lacrime. Le lacrime e Janet erano in così apparente disaccordo che Anna si spaventò moltissimo. Che cosa è successo? Gridò ansiosa. Oggi ho 40 anni, singhiozzò Janet. Oh, quanto a questo, ieri ci eri vicinissima e la cosa non sembrava darti un gran fastidio, la confortò Anna, cercando di non sorridere. Benché fosse nata un'amicizia tra loro e fossero giunte a una nuova confidenza, Anna stava ben attenta a non urtarne i sentimenti. Ma, continuò Janet con un singulto, John Douglas non mi chiederà di sposarlo. Ma certo che lo farà, replicò debolmente Anna. Dagli tempo, Janet. Tempo! Ripeté Janet con indescrivibile accento di scherno. Ha avuto 20 anni! Quanto tempo gli occorre? Vuoi dire che John Douglas ti sta appresso da 20 anni? È così, e non ha mai nemmeno nominato il matrimonio con me. E credo che non lo farà mai. Non ne ho mai parlato con anima viva, ma se non parlo adesso divento matta. John Douglas ha cominciato a vedermi 20 anni fa, prima che mia madre mancasse. Bene. Lui ha cominciato a girare, rigirare, tanto che dopo un po' io ho cominciato a metter mano al corredo. Ma lui non ha mai parlato di matrimonio. Ha solo continuato a girare e rigirare intorno a me. Non potevo farci nulla. Continuava così da 8 anni, quando mia madre morì. Pensai che allora avrebbe parlato, sapendo che ero sola al mondo. Lui mi è stato molto vicino e ha fatto tutto quel che poteva, ma di matrimonio niente, non se ne parlava. E così va avanti, da allora. La gente biasima me per questo. Dicono che sono io che non voglio sposarlo perché sua madre è così malata e io non me la sento di sopportarne il peso. E pensare che vorrei tanto badare a lei. Ma lascio che pensino quel che vogliono. Preferisco che mi critichino piuttosto che abbiano pietà di me. È così stramaledettamente umiliante che John non si dichiari. Perché? Perché non mi vuole? Se solo lo sapessi, non mi crucerei tanto. Forse sua madre non vuole che lui si sposi. Azzardò Anna. Oh, lei lo vuole. Mi ha detto più volte che vorrebbe vederlo sistemato. Lo spinge sempre. Hai potuto constatarlo anche tu ieri sera. Avrei voluto sprofondare. Non so che dire, disse Anna sentendosi priva di risorse. Pensava a Ludovic Speed, ma i due casi non erano paralleli. John Douglas non era un tipo come Ludovic. Devi avere più spirito di iniziativa, Janet, continuò Anna con aria decisa. Perché non gli hai chiesto spiegazioni tanto tempo fa? Non potevo, si giustificò pateticamente la povera Janet. Vedi, Anna, ho sempre amato profondamente John. Che lui si dichiarasse o no non aveva importanza perché io non avrei mai sposato nessun altro. Ma bisognava spingerlo a parlare come un uomo, insistette Anna. Janet scosse il capo. No. Penso di no. In ogni caso non volevo farlo per timore che lui se ne andasse. Forse sono una debole, ma è così che mi sento. Non posso farci nulla. Oh, puoi fare molto. E come, Janet? Non è ancora troppo tardi. Assumi un atteggiamento fermo. Fagli capire che non può più tenerti sulla corda. Io ti appoggerò. Non posso, non posso, si dolse Janet. Non avrò mai abbastanza fegato. Le cose sono andate avanti troppo a lungo, ma ci penserò su. Anna provava del risentimento per John Douglas. Le era piaciuto così tanto che non avrebbe mai pensato che fosse il tipo d'uomo che gioca con i sentimenti di una donna per 20 anni. Una lezione gli avrebbe fatto certamente bene e Anna si disse vendicativamente che ne avrebbe seguito volentieri gli sviluppi. Perciò si sentì soddisfatta quando Janet, in procinto di recarsi con lei al raduno di preghiera, le confidò che aveva trovato il fegato. Farò capire a quel John Douglas che non può più farmi girare come vuole. Perfetto! Approvò con convinzione Anna. Finita la riunione, John Douglas avanzò la solita richiesta. Janet appariva impaurita ma risoluta. No, grazie, loffredò. So trovare benissimo la strada di casa da sola. L'ho fatta per 20 anni. Perciò non stia a disturbarsi, signor Douglas. Anna guardò il signor Douglas e nel chiarore lunare notò per la seconda volta in lui i segni della distruzione. Senza una parola lui volse le spalle e si allontanò a grandi passi lungo la strada. Si fermi! gridò selvaggiamente Anna correndogli dietro, incurante degli esterrefatti spettatori. Signor Douglas, si fermi, torni indietro! John Douglas si fermò, ma non tornò indietro. Anna si precipitò per la discesa, gli afferrò il braccio e lo tirò risolutamente fino a Janet. Deve tornare indietro, lo implorò intanto. Si tratta di un errore. È tutta colpa mia, signor Douglas. Lei non voleva. Va tutto bene ora, eh, Janet? Senza una parola, Janet gli si appoggiò al braccio e si mise in marcia. Anna li seguì docilmente fino a casa e scivolò all'interno dalla porta posteriore. Brava, sei la persona giusta a cui appoggiarsi, ironizzò Janet sarcastica. Non ho potuto farne a meno, rispose Anna pentita. Mi sembrava di assistere a un assassinio. Ho proprio dovuto corrergli dietro. Oh, ma sono contenta che tu l'abbia fatto. Quando ho visto John Douglas infilare quel sentiero e andarsene via, mi sono sentita come se tutta la gioia e la felicità della vita se ne fossero andate con lui. È stata una sensazione terribile. Ti ha chiesto perché gli hai risposto a quel modo? Domandò Anna. No, non ha detto una sola parola al riguardo, replicò Janet con tristezza. Capitolo 34. Alla fine John Douglas si dichiara. Anna non era priva di speranza e prevedeva che dopo tutto qualcosa si sarebbe mosso, ma non accadeva nulla. John Douglas andava a trovare Janet, l'accompagnava in carrozza, la scortava a casa dopo il raduno di preghiera. Faceva insomma tutto ciò che aveva fatto per 20 anni e pareva intenzionato a farlo per 20 anni ancora. Anna insegnava, scriveva lettere, studiava un pochino. Le camminate per recarsi a scuola e per tornarne erano piacevoli. Amava percorrere la via che attraversava la palude. Era un posto delizioso, un acquitrino disseminato di isolotti muschiosi di un verde squillante, solcato da un ruscello d'argento e punteggiato di abeti rossi eretti contro il cielo, con i rami ricoperti di muschio grigio-verde e le radici coperte da ogni genere di arbusto silvestre. Nonostante ciò, Anna trovava la vita a Valley Road un po' monotona. Per essere precisi, non succedeva mai niente. Non aveva visto lo scialbo Samuel dei Mentini dai capelli di stoppa dal pomeriggio della sua visita, salvo che per qualche fortuito incontro per la via. Ma una calda sera d'agosto lui comparve all'improvviso e si mise solennemente a sedere sulla rustica panca del portico. Indossava gli usuali abiti da lavoro, cioè un paio di pantaloni costellati di pezze, una camicia di cotone azzurro rimboccata alle maniche e un logoro cappello di paglia. Aveva in bocca uno stelo di paglia e prese a masticarlo freneticamente mentre guardava Anna con grande solennità. Lei posò a malincuore il libro che stava leggendo e prese il centrino da ricamo con un sospiro. Una conversazione con Sam era impensabile. Dopo un lungo silenzio, Sam parlò all'improvviso. Me ne vado da lì, disse, puntando la paglia in direzione della casa dei vicini. Ah, davvero? Commentò educatamente Anna. E dove intendi andare? Beh, ho intenzione di mettermi per conto mio. Ho trovato un posto che fa per me a Millersville, ma per questo ho bisogno di una donna. Penso di sì, concordò Anna distratta. Seguì un lungo silenzio. Finalmente Sam si tolse la cannuccia dalle labbra e disse: Vuoi prendermi? Cosa? Annaspò Anna. Vuoi avermi? Intendi dire sposarti? Domandò debolmente la povera Anna. Ma ti conosco appena! Strillò indignata Anna. Beh, ci conosceremo dopo sposati, replicò Sam. Anna raccolse i brandelli della sua dignità. Certo che non ti sposerò, dichiarò altezzosa. Oh, potresti trovare di peggio, replicò Sam. Io sono un gran lavoratore e ho dei soldi in banca. Non dire più una sola parola. Com'è che ti sei messo questa idea in testa? Si informò Anna, il cui senso dell'umorismo stava per avere la meglio sulla collera. Era una situazione talmente assurda. Sei una bella ragazza e una brava camminatrice, spiegò Sam. A me non piacciono le donne pigre. Pensaci, per un po' rimango dell'idea, ok? Adesso devo andare. Le mucche aspettano di essere munte. Le illusioni di Anna sulle proposte di matrimonio avevano subito negli ultimi tempi tali e tante scosse che era rimasto ben poco di romantico. Poteva così riderci su, senza rimorso né dispiacere. Quella sera rifece il verso al povero Sam davanti a Janet e risero entrambe fino alle lacrime sul singolare sentimentalismo del giovane. Un pomeriggio, quando il suo soggiorno a Valley Road era ormai giunto agli sgoccioli, Alec Ward giunse al galoppo in carrozza chiedendo di Janet. «La vogliono a casa dei Douglas, subito!» annunciò. «Credo proprio che questa volta la signora Douglas stia per morire sul serio, dopo 20 anni che lo dice!» Janet corse a mettersi il cappello. Anna chiese se la signora stava davvero peggio del solito. «Nemmeno la metà del solito», proclamò solennemente Alec. «Per questo mi preoccupo. Le altre volte strillava e si lamentava e correva qua e là. Stavolta sta immobile e zitta. Quando la signora Douglas non parla, puoi essere sicuro che sta male.» «Non le piace la signora Douglas?» si informò Anna curiosa. «A me piacciono i gatti quando sono gatti, non quando hanno forma di donna», fu la criptica risposta di Alec. Janet tornò a casa al crepuscolo. «La signora Douglas è morta», disse tristemente. «È morta appena sono arrivata. Ha soltanto avuto il tempo di dirmi: adesso sposerai John, eh? Mi ha spezzato il cuore, Anna. Pensare che la madre di John era convinta che io non sposassi suo figlio a causa sua. Non ho potuto più spiccicare una sola parola. C'erano altre donne presenti. Ero contenta che John se ne fosse andato.» Janet cominciò a piangere amaramente e Anna le preparò un tè allo zenzero per confortarla. Per essere precisi, Anna scoprì più tardi di aver usato del pepe bianco al posto dello zenzero, ma Janet non avvertì la differenza. La sera seguente il funerale, Janet e Anna erano sedute sui gradini del porticato frontale alla luce del tramonto. Non c'era un alito di vento nella pineta e lividi lampi di calore guizzavano nel cielo. Janet indossò un brutto abito nero e assunse il suo aspetto peggiore, con il naso e gli occhi paonazzi per il gran piangere. Parlarono poco perché Janet reagiva debolmente a reiterati tentativi di Anna per tirarla su di morale. In breve, lei preferiva l'abisso della propria disperazione. All'improvviso scattò la serratura del cancello e John Douglas entrò a grandi passi nel giardino. Si diresse verso di loro calpestando la bordura dei gerani. Janet balzò in piedi. Lo stesso fece Anna. Anna era una ragazza di alta statura e indossava un abito bianco, ma John Douglas non la vide. «Janet!» strillò. «Vuoi sposarmi?» Le parole gli uscirono dalla bocca come se gli fossero rimaste tappate dentro per 20 anni e ora premessero con violenza, pretendendo di essere dette prima di qualsiasi altra cosa. La faccia di Janet era già talmente arrossata per le lacrime che non poté arrossire ulteriormente e trascolorò invece in un violaceo assai poco pregevole dal punto di vista estetico. «Perché non me lo hai chiesto prima?» mormorò. «Non potevo, avevo promesso a mia madre di non farlo, lei me l'aveva fatto promettere. 19 anni fa ebbe una terribile crisi. Pensavamo che non se la cavasse, mi implorò di non chiederti di sposarmi prima della sua morte. Io non volevo prometterle una cosa del genere, anche se tutti pensavamo che non sarebbe vissuta a lungo. Il medico le aveva dato solo 6 mesi di vita, ma lei me lo chiese in ginocchio, malata e sofferente, ho dovuto prometterlo.» «Che cosa aveva tua madre contro di me?» strillò Janet. «Niente, proprio niente, semplicemente lei non voleva accanto un'altra donna, nessun'altra donna, finché era in vita. Disse allora che se non l'avessi promesso sarebbe morta all'istante e io l'avrei avuta per sempre sulla coscienza, così. Promisi. E da quel momento lei mi ha tenuto legato alla mia promessa, anche se io l'ho più volte pregata in ginocchio di sciogliermene.» «Perché non me l'hai mai detto?» disse Janet con voce strozzata. «Oh, se l'avessi soltanto saputo, perché non me l'hai mai detto?» «Mi aveva fatto giurare che non ne avrei parlato ad anima viva», ribatté John con voce rauca. «Sulla Bibbia me lo fece giurare, Janet. Non l'avrei mai fatto se avessi saputo che sarebbe stato per tanto tempo. Oh, Janet, tu non saprai mai quanto ho sofferto in questi 19 anni. Lo so che ho fatto soffrire anche te, ma ora mi sposerai, nonostante tutto. Non è vero, Janet? Oh, Janet, lo farai? Sono venuto di corsa, appena ho potuto.» In quel momento l'attonita Anna rientrò in sé e si rese conto che non c'era alcuna ragione per cui lei se ne stesse lì. Sgattaiolò via e non vide Janet fino all'indomani, quando le narrò il resto della storia. «Che donna crudele, esecrante e falsa quella vecchia!» gridò Anna. Silenzio. È morta, disse Janet solenne. Se non lo fosse, ma lo è. Sicché non dobbiamo parlar male di lei. Ma alla fin fine sono felice, Anna, e non avrei avuto difficoltà alcuna ad aspettare, se solo ne avessi conosciuta la ragione. Quando vi sposerete? Il mese prossimo. Sarà una cerimonia molto tranquilla. Sono sicura che la gente dirà cose terribili. Diranno che ho fatto in fretta a prendermelo appena la sua povera madre se n'è andata. John voleva che sapessero la verità, ma io ho detto no, John. In fin dei conti, è tua madre. E terremo il segreto senza gettare ombra sulla sua memoria. Non mi importa che cosa dice la gente ora che so la verità. A me non crea problemi. Lascia che tutto venga sepolto con lei, gli ho detto. Così l'ho convinto. Sei molto più propensa al perdono di quanto lo sia io, disse Anna pensierosa. Cambierai molto la tua visione del mondo quando avrai la mia età, replicò Janet, comprensiva. Questa è una delle cose che si imparano invecchiando, sai? Come dimenticare? E a 40 anni diventa più facile che a 20.